Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, ultima puntata della settimana di Focus Economia, in un fine settimana, lasciatemelo ricordare, come già anticipavano alcuni nostri promo, in cui cambia anche il palinsesto di Radio 24 con importanti novità. Fatemi fare un micro spot in apertura. E quindi Oscar Giannino per due ore dopo si può fare la mattina, un programma nuovo di tre ore in diretta dalle 15 alle 18, condotto con vari ospiti di questa redazione, ma condotto da Marta Cagnola. È un programma bellissimo, oltre agli altri di Gianluca Nicoletti, da domenica, tutto diciamo ambientato in un treno e lo sport che si rafforza. Chiuso con il quarto spot dell'emittente, andiamo con le notizie di oggi. Chiaramente il nostro GR24 vi ha già ricordato la condanna di Mussa, era molto attesa. Oggi c'erano due sentenze molto attese e chiaramente una di queste riguarda Mussari, oltre alle motivazioni, ma questo riguarda altri temi, e alla lettura di quanto è avvenuto al Quirinale con il Presidente della Repubblica. Dicevo, parleremo di Mussari più avanti, ex Presidente del Monte dei Paschi di Siena. Parleremo anche col Ministro Poletti nella seconda ora del programma, Ministro del Lavoro, perché oggi sono usciti, ed è notizia d'attualità, dei dati che apparentemente sembrano in contraddizione, in realtà non lo sono. Mi riferisco ai dati sulla disoccupazione da un lato e sulla occupazione dall'altro. Allora, cosa è successo? L'Istat oggi ha comunicato che nel mese di settembre il numero di occupati è aumentato dello 0,4% su agosto, 82.000 occupati in più in un mese, e dello 0,6% rispetto a un anno prima, 130.000 occupati in più. Allo stesso tempo i disoccupati sono aumentati al 12,6% a settembre. La disoccupazione giovanile va al 42,9% e il numero di disoccupati a settembre in Italia è pari a 3.236.000 persone, in aumento sia rispetto ad agosto sia rispetto all'anno prima, 48.000 in più rispetto ad agosto i disoccupati, 58.000 in più rispetto a un anno prima i disoccupati. Tant'è che questo livello di 3.236.000 è il più alto che mai abbiamo registrato da quando misuriamo in questo modo la disoccupazione, dal 2004. Ora, uno può dire come fanno a stare assieme un dato buono sull'occupazione e un dato cattivo sulla disoccupazione. Lo spiegheremo e chiederemo appunto anche spiegazione al Ministro. Faccio notare, come sempre facciamo in questi casi, che l'occupazione misura il numero di persone che effettivamente lavorano, fatto 100 sul totale di quelli che potrebbero lavorare. La disoccupazione invece va a guardare chi sta cercando un lavoro e non l'ha trovato. La cosa è molto diversa, perché tu hai molte persone che non sono né disoccupate né occupate, semplicemente sono inattive, non vogliono cercare un lavoro per motivi personali, perché sono scoraggiate dal mercato del lavoro e pensano di non trovarlo, perché ritengono più conveniente stare a casa, in alcuni casi ahimè, piuttosto che accettare certi lavori visti alcuni salari, per tutto un insieme di motivi, perché si sono stancate, vivono di renta, quello che volete. Però da questo punto di vista il numero di disoccupati va a fotografare solo chi sta cercando lavoro e non l'ha trovato, e quindi noi abbiamo in questo momento un paese in cui lavorano più persone rispetto a un anno fa, 130.000 occupati in più, e ci sono però anche più persone rispetto a un anno fa che stanno cercando un posto di lavoro. Evidentemente parte di chi era inattivo, cioè non cercava il lavoro e non lo aveva, si è messo a cercarlo. Di solito è una buona notizia, perché vuol dire che ci sono più attese sul futuro, maggiore fiducia, si capisce che il mercato, uno si rimette in gioco perché vede maggiori possibilità. Con quello che è successo in questi anni c'è però anche chi dice: attenzione, probabilmente le risorse familiari, i risparmi piuttosto che gli aiuti sono finiti, e anche chi non era interessato ad accettare certi lavori, non voleva mettersi in gioco, non voleva andare sul mercato del lavoro, è tra virgolette costretto a cercare un lavoro, e quindi la disoccupazione aumenta non come maggior fiducia nel futuro e un mercato del lavoro che è tornato a muoversi, ma aumenta solo perché è aumentata la difficoltà delle famiglie e dei singoli individui. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve e i temi di cui ci occuperemo. Allora, ripartiamo anche dalle altre notizie in breve. Ci occuperemo, ripeto appunto, di occupazione e disoccupazione da un lato, scusate il gioco di parole, della vicenda Monte dei Paschi di Siena e della condanna. È arrivato tutto a pochi minuti, diciamo, dalla messa in onda, quindi adesso stiamo assieme a voi guardando anche le agenzie della condanna di Musseri per la vicenda Monte dei Paschi di Siena e anche delle dichiarazioni arrivate, lo faremo subito in apertura, oggi nel corso della Giornata Mondiale del Risparmio, sia dal Ministro dell'Economia Padoan che dal Presidente delle Banche Italiane, dell'Associazione delle Banche Italiane Patuelli, che soprattutto dal Governatore della Banca d'Italia Visco. È chiaro che tutte le dichiarazioni riguardavano gli stress test sulle banche e la reazione del mercato. A proposito di mercato, oggi Milano è in netto recupero, questa volta si può dire netto recupero, più 3% il FTSE MIB, UbiBank guadagna il 6,70%, UniCredit il 4,16%, Intesa il 3,90%, sto citando volutamente le banche che molte erano calate in questi giorni. Non c'è un recupero per nulla, anzi è un nuovo sprofondo, mi dispiace dirlo, per il Monte dei Paschi, che a questo punto perde il 10%, il 10,38% a 60 centesimi di euro per azione. Adesso faccio un calcolo rapido, ma mi sa che il Monte dei Paschi ha perso il 40% del suo valore da lunedì a oggi. Poi arriveremo con un dato più corretto, ma quotava un euro per azione, insomma. E siamo arrivati, dovrebbe essere circa un calo del 40% da lunedì ad adesso, visto che siamo a 60 centesimi di euro per azione. Non ci vuole un genio della matematica per arrivarci. Tra gli altri titoli che vanno bene invece, Finmeccanica più 5,60, ST Microelectronics più 5,20, così come il 5,20 guadagna anche Exor, la controllante di Fiat, Enel più 4% come Telecom Italia, Fiat, Chrysler più 3,80%, World Duty Free più 3,5%, Tod's più 3,1% come Generali e Unipulsai il 3% lo guadagna Mediaset, il 2,90 Jux e Snam il 2,80 e nel Green Power e la Popolare di Milano il 2,70, Prismian e Autogrill il 2,5, Eni e Terna. Sì, chiederemo anche, vedo alcuni messaggi al ministro al lavoro, cosa ne pensa del ruolo dei sindacati e per inciso anche della pensione, degli aumenti di stipendio e della conseguente pensione dell'ex segretario della CISL Bonanni. Il mio giudizio, l'avete sentito ieri, è incomprensibile come uno possa avere aumenti di stipendio del 30, del 20% dopo aver già avuto l'adeguamento. Partiva da 80.000 euro, arrivato a 100.000, poi 130. E soprattutto uno che fa il segretario di un sindacato non è che possa avere il premio di produttività su cosa? Cioè, se anche ottiene un contratto nazionale o una trattativa che va a tutela dei lavoratori, è il motivo per cui fa il segretario della CISL, no? Cioè, per cui, e allora equipararlo, e soprattutto manca trasparenza, lo dico con il massimo rispetto per i sindacati, non riusciamo a capire in base a che cosa venga dato il 30% in più a Raffaele Bonanni, segretario della CISL in quegli anni. Adesso poi vi ridico anche tutta la lista lunga dei suoi aumenti, ogni anno un aumento del 10, 15, 30%, e poi te credo che arrivi a una pensione di 8.700 euro lordi, 5.000 euro netti, ma ci arrivi perché era troppo alto, o meglio perché era cresciuto moltissimo, per essere più precisi, il tuo stipendio. Allora, qualcuno dice che prendiamo in giro gli ascoltatori con la disoccupazione e il rialzo della borsa. No, guardi, la borsa ovviamente non riusciamo ancora a controllarla. Sulla disoccupazione ho chiarito che cosa vuol dire, che tra l'altro mentre una volta, ripeto, una disoccupazione in aumento assieme all'occupazione era solo un buon segnale, ho anche aggiunto che con quello che è successo negli ultimi 5 anni, cioè col fatto che il mondo sia cambiato, altro che crisi, non siamo sicuri che sia solo un buon segnale, perché potrebbe essere che alcuni si sono messi a cercare lavoro non perché più fiduciosi, ma perché più disperati, mentre una volta la lettura sarebbe stata univoca: aumenta l'occupazione, aumenta la disoccupazione, vuol dire che si sono creati più posti di lavoro perché ci sono più lavoratori e più persone sono invogliate a cercare lavoro e quindi per ora non l'hanno trovato. Adesso temo che la spiegazione, così come l'abbiamo sempre raccontata prima della crisi, non regga più. O non regga totalmente. Nel frattempo, per quello che riguarda i mercati, la Banca del Giappone ha varato nuove misure di allentamento monetario a sostegno dell'economia allo scopo di ridurre la pressione al ribasso sui prezzi, la deflazione. Praticamente la Banca Centrale Giapponese acquisterà titoli governativi per 80 miliardi di yen in rialzo di 30 miliardi, sono 200 miliardi ulteriori di euro. E la borsa di Tokyo ha festeggiato, oggi ha chiuso sui massimi, alla fine più 4,80%. La Banca Centrale Russa invece ha alzato il tasso di interesse al 9,5%, ha l'obiettivo di questa mossa di arrestare il crollo del rublo, anche oggi un nuovo minimo sull'euro e sul dollaro a causa della crisi ucraina. Il rublo quest'anno ha perso il 22% del suo valore. Ancora dalla Germania, mentre il capo della Banca Centrale Austriaca, nonché membro del board della BCE, Evlad Novtoni, dice: attenzione, in questo momento è troppo presto per parlare di quantitative easing, cioè di stampaggio di euro, di moneta. Tuttavia, mai dire mai. Nel frattempo, dicevo, dalla Germania arriva un dato pesantissimo sulle vendite al dettaglio, sono crollate, e le vendite al dettaglio servono per misurare i consumi, sono il dato che usiamo per i consumi, dicevo, sono crollate a settembre del 3,2% su agosto, è un dato peggiore dal 2007. L'inflazione nell'area euro a ottobre è allo 0,4%, leggermente più alta di settembre quando fu allo 0,3%. La disoccupazione dell'area euro 18 resta all'11,5%. E della disoccupazione italiana abbiamo parlato anche noi, dell'inflazione sono un po' risaliti i prezzi ad ottobre dopo il primo dato di deflazione, quello di settembre, -0,2%. A ottobre +0,1%, invariati i prezzi dei beni alimentari, quelli chiamati del carrello della spesa, beni alimentari, cura della casa, della persona, zero, sono cresciuti di uno 0,1% rispetto a ottobre 2013. Allora, adesso arriviamo al Monte dei Paschi di Siena, faccio solo notare che una notizia che potrebbe diventare e gonfiarsi nei prossimi giorni, dopo il taglio dei finanziamenti ai partiti, che sono scesi dai 290 milioni del 2010 ai 40 milioni previsti quest'anno, i bilanci dei partiti si tingono di rosso, le perdite complessive dei partiti italiani sono di 82 milioni di euro, le donazioni attraverso il 2 per 1000 non decollano e i tesseramenti risultano fiacchi. Il PD ha chiuso l'ultimo bilancio con una perdita di 11 milioni, nonostante il drastico calo dei rimborsi spese. Forza Italia ha un rosso di 25 milioni e diciamo che è tenuta a galla dalla donazione di 15 milioni da parte di Silvio Berlusconi stesso. La Lega Nord ha chiuso lo scorso anno con perdite per 14 milioni dopo i 10 milioni di rosso del 2012 e perdite per 9 milioni a testa anche per Italia dei Valori e UDC. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo dalla prima. Mi scrive un ascoltatore: ma Bonanni un tempo non era un vostro idolo? No, non abbiamo avuto idoli, e Bonanni l'abbiamo fatto ascoltare essendo segretario di un importantissimo sindacato italiano come la CISL. Abbiamo anche discusso in diretta con Bonanni in tema di merito della pubblica amministrazione, la CISL accusata di difendere troppi pensionati e il pubblico impiego. Detto questo, massimo rispetto per il segretario di un sindacato, io ho posto un'altra domanda che riguarda la politica retributiva del segretario della CISL, visto quello che abbiamo letto, che non c'entra niente con rispetto per chi fa il segretario di un importante sindacato italiano. Ma adesso andiamo su un tema leggero leggero che si chiama Monte dei Paschi di Siena. Parliamo adesso, voglio essere molto chiaro, del Monte dei Paschi di Siena in borsa, che continua a prendere bastonate dopo l'esito degli stress test e le ipotesi che si stanno facendo. Chi comprerà i Monti Bond? Ascolteremo poi alcune dichiarazioni anche del presidente delle fondazioni bancarie italiane, Guzzetti, mentre il numero uno di Intesa San Paolo ha detto: non siamo interessati ai Monti Bond né al Monte dei Paschi. Guzzetti ha detto: per le fondazioni potrebbero acquistare i Monti Bond e il Monte dei Paschi di Siena per aiutare il gruppo senese a far fronte alle carenze di capitale. Lo ascolteremo dopo. Il titolo oggi perde l'11,20% con una borsa che guadagna il 3%. Qui parliamo di chi ha contribuito, secondo l'accusa e secondo la prima sentenza, a ridurre il Monte dei Paschi di Siena in questo modo, visto che poi la debolezza finanziaria del Monte dei Paschi, nonostante i Tremonti e i Monti Bond, arriva dagli scandali che hanno travolto il vecchio vertice. Scandali in cui spesso abbiamo chiamato con correità anche la cultura senese, il ruolo della fondazione di una banca che doveva sempre essere sul territorio, che doveva elargire e pensare a tutto, in cui la senesità era un valore, mentre fuori il mondo si riempiva di Cina, India, Indonesia, Brasile, banche globali. La senesità era fondamentale, la fondazione stessa premeva per questo, ma questo, diciamo, fa parte, se vogliamo, dell'errore di visione, dell'errore strategico su una banca, dell'eccesso di legami con il territorio che sono virtuosi quando servono a far crescere un territorio, diventano viziosi quando il territorio ha una corsia preferenziale solo per il fatto che si chiami provincia di Siena o Toscana. Questo però è un errore strategico. Poi ci sono i reati veri e propri, non vorrei confondere nemmeno questi due piani. Allora, subito Sara Monaci, perché oggi c'era la sentenza. Imputati l'ex presidente del Monte dei Paschi Giuseppe Mussari, l'ex direttore generale Antonio Vigni, l'ex responsabile delle finanze Gianluca Baldassarri, tutti quanti per via della vicenda Alexandria, imputati per ostacolo all'autorità di vigilanza in relazione alla ristrutturazione del derivato Alexandria e del suo collegamento con l'operazione BTP 2034, le operazioni concluse entrambe con Banca Nomura come controparte. I PM avevano chiesto di condannare Mussari a 7 anni di reclusione, Vigni e Baldassarri a 6 anni. Hanno beccato tutti e tre, se ho capito, 3 anni e mezzo di reclusione. Sara Monaci, aggiornami perché la notizia è arrivata mentre stiamo andando in diretta, prego. Sì. Allora, la condanna è proprio di pochi minuti fa, tutti e tre sono stati condannati a 3 anni e 6 mesi di reclusione. È una condanna che dimezza la richiesta dei procuratori, che si erano spinti appunto a 7 anni per Mussari, a 6 anni per Vigni e Baldassarri. Si aggiunge però una cosa da non sottovalutare: 5 anni di interdizione ai pubblici uffici, quindi questo anche simbolico, sì, perché ovviamente è stato anche ritenuta una responsabilità proprio pubblica, ecco, perché poi poi di questo si trattava. Il processo che abbiamo appena visto, però, ricordo, è uno degli dei filoni, perché quello che appunto dicevi tu prima, cioè il grande, la grande acquisizione di Anton Veneto, che avrebbe poi portato un problema non indifferente ai conti del Monte dei Paschi, ricordo che fu pagata 9 miliardi, ma poi a fronte dei crediti inesigibili, complice la crisi finanziaria, quindi crediti inesigibili di Anton Veneta, questo conto è stato molto salato per il Monte dei Paschi, fu di 17 miliardi. Da qui, dicono i procuratori, arriva la ristrutturazione in derivati, i quali derivati hanno a loro volta poi peggiorato la situazione. Di questo stiamo parlando. Ecco, però su questo voglio provare a fare l'avvocato del diavolo di Mussari, di Vigni, di Baldassarri. Allora, la vicenda Anton Veneta la conosciamo tutti, fu anche all'origine di uno scontro dell'allora governatore, prima del Monte dei Paschi, dell'allora governatore della Banca d'Italia Fazio, i furbetti del quartierino, poi la presa ABN AMRO, poi a un certo momento la banca olandese la vende al Monte dei Paschi, ok? La banca olandese la vende, aspetta un passaggio, sì, sì, la vende a Santander e Santander la vende al Monte dei Paschi. Ora uno potrebbe dire, l'hanno pagata tantissimo col seno di poi, 17 miliardi, sì, il conto complessivo. È un tema però, però voglio dire, in quel momento lì, sì, io, prima che scoppiasse la crisi, avevamo anche, non so, banche d'affari come Goldman Sachs, sì, che dicevano, un attimo, che dicevano che il petrolio sarebbe arrivato a $200, le fusioni, bisognava fare la banca universale, tutte le banche dovevano fondersi. Uno potrebbe dire, hanno sbagliato e è giusto che non siano più alla guida della banca. Però dov'è il reato? Perché se io compro una banca convinto che la mia strategia sia giusta e compro e la pago tanto, poi crolla il mondo, salta tutto e io ci perdo perché l'ho pagata tantissimo rispetto al valore che ha adesso, sono un cane come manager e me ne devo andare, ma non ho commesso reato. In diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, mentre vedo commentavo anche con Sara Monaci alcune dichiarazioni degli avvocati di Mussari che dicono i testi comparsi in tribunale hanno dimostrato che Banca d'Italia era a conoscenza di tutta la vicenda relativa al mandate agreement, adesso arriveremo anche su questo. Ripeto la domanda, Sara. Uno potrebbe dire che sono stati dei cattivi manager perché hanno sbagliato tutto a comprare Anton Veneta al doppio del valore a cui l'aveva appena comprata Santander, a cercare di recuperare le perdite che si erano verificate perché poi il mercato è crollato, c'è stata la crisi con dei derivati ad altissimo rischio che infatti questi rischi poi li hanno palesati, hanno fatto aumentare le perdite, per cui cattivi manager, si può dire tante cose infatti, aspetta, incapaci, ma cosa c'entra la condanna? Prego. Allora, hai messo proprio il dito nella piaga, nel senso che questa inchiesta poi ha questo duplice aspetto: da una parte il management e le operazioni sbagliate, dalla parte i reati penali. Quello che dicevamo prima, l'acquisizione di Anton Veneta fu un'operazione che all'epoca sembrava avere un senso, in ogni caso ad oggi non la stiamo trattando perché la stanno curando, è stato stralciato e la sta curando i procuratori di Milano, quindi non sappiamo ancora dove andrà questa inchiesta. Certo è, come dicevi tu, quella banca è strapagata con la logica di oggi, all'epoca aveva assolutamente un senso. Oddio, fu pagata quasi il doppio rispetto a quanto la comprò il Santander da ABN AMRO, sì. però voglio dire, erano altri anni, adesso non voglio entrare nei multipli, non faccio banchiere, purtroppo o per fortuna, dipende dai casi, ma e quindi non sto a ragionare sui multipli o non i multipli, dico solo che la pagarono tanto. Ma anche Finmeccanica pagò tanto di RS Technologies, il motivo per cui indagano Tremonti non è per il prezzo, è per capire se quel pagamento è stato fatto così alto perché si riteneva che la società avesse valore o perché erano circolati, diciamo, altri interessi. E anche nel caso di Monte dei Paschi mi sembra di capire che la domanda sia: la paghi tanto perché ci credi o la paghi tanto perché ci intaschi? Scusatemi la brutalità. L'inchiesta in realtà è addirittura su un aspetto ancora più tecnico, il prezzo non è in discussione nemmeno per i PM, i quali parlando dicono spesso il prezzo era congruo con quello che all'epoca erano le scalate e non enorme, è vero, però era congruente. Il punto è, furono fatti delle i finti aumenti di capitale per fare in modo che questa operazione non comportasse un cambiamento nell'azionariato, cioè che, come dicevi tu, la fondazione MPS mantenesse il controllo della banca. Questo è il punto, cioè è un'operazione che la banca, così come era, in particolare la fondazione, poteva permettersi o no. Infatti il reato non è acquisizione, non è altro, è l'ostacolo alla vigilanza, la manipolazione del mercato, falso in prospetto, cioè aver dato dei parametri di patrimonio finti. Ecco, qui veniamo al rapporto con la fondazione, mi spiego. Se tu fai un aumento di capitale perché devi comprare una banca come a quel livello di prezzo come ABN AMRO, devi aumentare i soldi che hai nel capitale. Il problema qual è? Che se ho un capitale di un milione e se il capitale è di un milione e io ho 100.000 euro, ho il 10%. Se il capitale va a 2 milioni e io continuo ad avere 100.000 euro, il mio capitale è del 5%. Quindi si diminuisce la mia quota, a meno che non metta i soldi anch'io. L'accusa è che siccome la fondazione voleva mantenere il controllo e la presa sulla banca, ma non aveva i soldi per fare l'aumento di capitale, si sono fatti aumenti di capitale fittizi in modo che la fondazione mantenesse la stessa quota pur non tirando fuori i soldi. La sintetizzo, ma insomma non vado molto distante, Sara. Sintetizzata, furono fatti quelli che abbiamo sempre chiamato i famosi fresh, altro non erano, certo, che delle obbligazioni. Fresh, cioè. Esatto, si chiamano così, ma sono delle obbligazioni, quindi in realtà sono dei debiti, non sono degli aumenti di capitale, non sono crediti, è tutto il contrario. Mancavano dei soldi, mi sembra intorno ai 120 milioni, perché sono strumenti finanziari molto complessi, però sostanzialmente il punto è: quel tipo di patrimonio non era in grado di sostenere quell'acquisto, non si entra nel merito se quell'acquisto fosse giusto o no, dal punto di vista penale. Oggi dal punto di vista industriale possiamo aggiungere che fa un'operazione sovrastimata, cioè questo un altro punto, esatto, come dici tu. Infatti, ok, comunque Sara, arriviamo a il Monte dei Paschi compra da Santander l'Anton Venta, la paga tantissimo per i prezzi adesso, un po' anche tanto per i prezzi allora, comunque. Poi arriva la crisi, i titoli bancari crollano, inizia a accumulare perdite anche sull'acquisto di Anton Veneta. Nel frattempo ha fatto finti aumenti di capitale per fare in modo che la fondazione non scendesse di quota dentro il Monte, e questa è la colpa, diciamo, del rapporto perverso tra la banca Monte dei Paschi e Siena. Lo dico in maniera molto chiara, così i senesi mi ameranno oggi, perché lì non c'è mai stato nessuno che ha detto: ma la banca deve, se vuoi fare la quarta banca italiana devi uscire dalla provincia di Siena, dalle mura e quant'altro. Invece no, la banca era loro, serviva a far tutto, ai singoli rioni, all'iniziativa X da 10.000 euro, di tutto abbiamo letto. Comunque arriviamo ad Alexandria, al derivato Alexandria. Cosa succede? Che viene scelto per cercare di fare a leva, speculando di avere dei guadagni che potessero riequilibrare le perdite. Prego, Sara. Sì, sostanzialmente è questo, per cui Anton Veneta ad oggi ancora non sappiamo come andrà a finire, perché l'inchiesta è stata spostata a Milano, per il motivo per cui le informazioni sbagliate sono state date in borsa, la borsa ha sede a Milano e quindi è stato tutto portato su. Quindi, come dicevi tu, a un certo punto la banca deve sistemare i bilanci. Ovviamente si parla di perdite molto più basse, però comunque si tratta di 700 milioni per quanto riguarda Alexandria, cioè un derivato di Nomura. Qual è il reato di cui stiamo parlando oggi? Oggi c'è soltanto un segmento di questo derivato, che è l'ostacolo alla vigilanza nei confronti di Banca Italia. Banca Italia e anche i procuratori dicono: queste perdite pari a 700 milioni causate da questo derivato ristrutturato nell'arco di 7-8 anni, Banca Italia non era in grado di valutarle queste perdite, perché mancava un contratto che connettesse tutti questi sottocontratti che, sommati fra loro, davano la quantizzazione complessiva di questa perdita. E da lì l'ostacolo alla vigilanza, cioè tu non hai permesso alla Banca d'Italia di capire quale fosse il tuo contratto e i rischi che portava. E quindi questo contratto, che si chiama tecnicamente Mandate Agreement, sì, dice la procura, è stato occultato per anni dentro la cassaforte del direttore generale Vigni. Non è stato messo a disposizione degli ispettori di Banca Italia e soltanto il nuovo management di Profumo, del presidente Profumo e di Viola, esatto, è stato consapevole quando ha aperto queste casse già dopo diversi mesi che era entrato. Da qui parte questo secondo filone di inchiesta rispetto, secondo rispetto a Anton Veneta. Ultima domanda che ho per te, adesso abbiamo capito che Siena oggi ha deciso solo su una piccola parte dell'intera, che è l'aver occultato, secondo l'accusa e secondo a questo punto anche il tribunale, alla Banca d'Italia qual era il reale portato, i rischi dell'operazione Alexandria, occultandolo anche fisicamente, se ho ben capito, cioè mettendolo in cassaforte proprio. Esatto, era un po' una barzelletta. Mancava metterlo sotto il letto e avevamo fatto. Esattamente, qua, esatto. Parliamo di grande finanza e poi però ci sono dei comportamenti quasi rurali, no? Uno lo nasconde. No, vabbè. Scusami, l'ultima cosa, la famosa banda del 5% sulle operazioni Alexandria Santorini, quelle che si intascavano per vendere il derivato, quella è su Milano? No, quella prosegue a Siena perché è un reato commesso che è un aspetto, diciamo, collaterale. Quella è la grande inchiesta MPS, poi i procuratori indagando hanno trovato anche dei comportamenti che devono però essere perché poi si aggiungerebbe pure il fatto che se scopre che tu vai a comprare il derivato Alexandria non solo perché vuoi risistemare i conti della banca e non solo ti becchi 3 anni perché hai occultato i termini del contratto alla Banca d'Italia, ma si dovesse scoprire anche che dietro ci guadagnava il 5% chi te lo vendeva e il 5% chi lo comprava. In questo caso, diciamolo, l'imputato è uno dei tre, è Baldassarri, perché è Baldassarri, certo, è il capo della banda del 5% che era anche responsabile dell'area finanziaria, quindi diciamo in questo caso è quello che dici tu, un doppio ruolo, cioè io li vendevo ma ci guadagnavo pure. In quel caso però la banca, precisiamolo, sarebbe parte lesa, certo, perché in questo caso manager, la banca sarebbe parte lesa, certo. Infatti ha fatto un'azione di responsabilità sia nei confronti della banca Nomura che nei confronti di Deutsche Bank. Domanda, adesso cosa capiterà a Mussari, Vigni e Baldassarri? Allora, prima di tutto ci aspettiamo l'appello, che è scontato, l'hanno già annunciato gli avvocati, grandi avvocati del Foro Romano, Vigni è difeso da Coppi, Di Nacci difende Baldassarri, l'unico senese è Pisillo che difende Mussari. Hanno già tutti quanti annunciato l'appello, quindi è in appello che poi avremo un'idea. Diciamo che sappiamo che 3 anni e 6 mesi di carcere, di reclusione, dubito, ecco, che non li faranno. Vabbè, però non c'è solo questo in corso, c'è anche Milano e c'è l'altra, tranche. Sì, poi ovviamente non è a questo punto la condanna alla reclusione in senso stretto, cioè non credo che il punto vero sia vederli in galera, potrebbero essere domiciliari e potrebbero essere indultati, il punto è comunque attribuire delle responsabilità. Il punto è avere anche dei risarcimenti, se devo dirla tutta, perché a me di vedere in galera domiciliari Mussari non me ne frega nulla, mi piacerebbe di più vedere se c'è qualcosa che può, ammesso e non concesso, che fosse confermata la sua colpevolezza su tutti i fronti, se può risarcire qualcosa, ok? E poi lasciamo stare. Adesso no, perché sennò polemizzo con l'ABI, ma non ho voglia. Detto questo, grazie a Sara Monaci, le informazioni sul traffico. Poi adesso, dopo, ci occupiamo del Monte dei Paschi di adesso, quello che ha perso un 40% da lunedì dopo gli stress test, e anche delle dichiarazioni del presidente delle Fondazioni Bancarie Italiane, Guzzetti. E Monte dei Paschi di finale è meno 10,46% con una borsa che oggi ha fatto molto bene, più 3,1%. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. La borsa e soprattutto di nuovo il Monte dei Paschi. Allora, per il resto della borsa oggi è stata una giornata più che positiva. UBI Banca più 6,70, iniziamo dalle banche. Unicredit più 4,20, Intesa più 3,90. Ancora Generali più 3, Unipolsai più 3%, Pop Emilia Romagna più 2,90, Mediobanca più 2,70, Pop Milano più 2,60%. Perché positiva? Perché insomma un po' di rimbalzo e un po' si ipotizza, a mio avviso, è un'ipotesi molto speculativa, che anche in Europa ci possa essere lo stesso atteggiamento che si è avuto in Giappone, dove la banca centrale ha annunciato un piano importante di acquisto di obbligazioni di titoli di Stato, e sulla speranza che la Banca Centrale Europea prima o poi faccia anche lei quantitative easing, cioè stampi euro. E le borse europee hanno avuto tutte un'interazione positiva, perché Parigi più 2,2 come Francoforte, e Londra che fu dall'euro più 1,30, l'America più 1%. Andava molto bene oggi in Brasile, Team Brasil più 10% sul ritorno delle voci di un'offerta d'acquisto da parte di Vivo, Claro e Oi, poi smentite da Telecom Italia, dalla controllante, dello stesso presidente Recchi, che ha detto non abbiamo ricevuto alcuna offerta. E poi la vicenda Monte dei Paschi. Allora, che cosa è successo oggi? Non c'entra nulla la vicenda giudiziaria. Beh, il mercato ragiona, il titolo ha perso il 40% da lunedì. La banca entro 10 giorni deve presentare un piano alla Banca Centrale Europea per mostrare alla BCE, spiegare alla BCE come intende colmare i 2 miliardi e 100 milioni di carenze di capitale. Allo studio c'è il rinvio del rimborso dei monti bond residui, circa un miliardo, l'emissione di bond ibridi che servono per aumentare il capitale, quindi obbligazioni ibride, e un nuovo aumento di capitale dopo quello da 5 miliardi di euro varato prima dell'estate. L'alternativa radicalmente diversa è l'aggregazione con un'altra banca. Ieri il presidente di Monte dei Paschi, Profumo, si è recato a Francoforte per capire dalla Banca Centrale Europea quali siano i margini che la Banca Centrale Europea intende concedere alla banca. Però ci sono state varie dichiarazioni oggi in occasione della giornata mondiale del risparmio. Per esempio, il numero uno di Intesa San Paolo, Messina, ha detto che Intesa San Paolo non è interessata al Monte dei Paschi di Siena. Allo stesso modo invece il presidente delle fondazioni bancarie, Guzzetti, storico presidente delle fondazioni bancarie, ha detto potremmo acquistare i monti bond che avanzano, quel miliardo che ancora il Monte dei Paschi ha in pancia, per acquistare la banca senese e far fronte alle carenze di capitale. E non possiamo né confermare né smentirlo, ma si tratta di strumenti garantiti con un interesse molto elevato. Mentre, parlando come Fondazione Cariplo, ha detto Guzzetti che la Fondazione Cariplo non compirà nessuna iniziativa nella vicenda Monte dei Paschi. Poi ha spiegato come le fondazioni siano le prime a desiderare regole che evitino il ripetersi di casi come quelli di Siena e di Genova. Siamo i primi a invocare una iniziativa assieme all'autorità di vigilanza che ponga fine a queste situazioni, perché è chiaro che episodi come Siena e Genova sono all'onore delle cronache tutti i giorni e il sistema finisce in una polemica che non è rispondente a quello che abbiamo fatto in questo momento. Allora, diversificazione del patrimonio, non si tratta di tornare in Parlamento, perché il criterio è valido. Ma cosa vuol dire concentrazione? Vogliamo convenire che il singolo investimento non può superare il 30% del patrimonio? Siamo d'accordo. Investimenti speculativi, vogliamo dire chiaramente che vieteremo alle fondazioni di mettere soldi in investimenti speculativi, gli fondi, i derivati, eccetera. Vogliamo convenire che le fondazioni non devono indebitarsi, perché l'indebitamento è l'inizio della fine delle fondazioni. Siena va in crisi anche per l'indebitamento del secondo aumento di capitale. Sulla governance, vogliamo definire quello che le nostre fondazioni stanno mettendo negli statuti, che dobbiamo introdurre criteri e presidi perché ci sia una gestione attraverso gli organi della fondazione che risponda esclusivamente all'interesse della fondazione e non a interessi esterni. Siamo d'accordo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo commentando un pezzo dell'intervento del presidente della Fondazione Bancaria Guzzetti. È tutto giusto, perlomeno quello che abbiamo sentito, sul ruolo delle fondazioni. Ci si chiede semplicemente perché si dica faremo, ma non lo si sia fatto nel passato, visto che Guzzetti è tanti anni che presiede il mondo delle fondazioni bancarie, perché è innegabile che rispetto all'impostazione e all'obiettivo originario delle fondazioni bancarie, che dovevano occuparsi di tutto ma non della banca, in realtà molte, non tutte per carità, fondazioni bancarie di fatto sono rimaste l'azionista di riferimento nel corso degli anni. Poi la vicenda del Monte dei Paschi di Siena, diciamo, è per alcuni versi quasi patologica, perché non può essere presa come paradigma, ma insomma, se sono d'accordo, potevano anche farlo prima, perché a noi è sembrato in molte occasioni che la presa delle fondazioni bancarie sulle banche stesse, contrariamente all'idea per cui erano nate le fondazioni bancarie, cioè attività sul territorio, non sia mai venuta meno. Comunque, esame della Banca Centrale Europea è in linea con le stime del Fondo Monetario della Banca d'Italia, lo dice il governatore della Banca d'Italia Visco, appunto in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, il quale ricorda anche che comunque il sistema bancario italiano ha avuto complessivamente una tenuta. Se si tiene conto delle altre misure di rafforzamento patrimoniale già decise nel 2014, la carenza di capitale connessa con il realizzarsi dello scenario avverso dello stress test si riduce ulteriormente a 2,9 miliardi, lo 0,2% del PIL, e interessa due banche, il Monte dei Paschi di Siena e Carige, con carenze pari all'1,1 e al 2,2% dei rispettivi attivi di bilancio a fine 2013. Si conferma nell'insieme la valutazione formulata un anno fa sulla base delle prove di stress condotte dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca d'Italia nell'ambito del Financial Sector Assessment Program. I risultati di quell'esercizio mostravano che il sistema sarebbe stato in grado di fronteggiare anche lo scenario più avverso e che le esigenze di capitale a cui alcuni intermediari avrebbero dovuto far fronte si sarebbero collocate, a seconda della definizione di capitale utilizzata, tra 6 e 14 miliardi. Molti commentatori hanno stilato graduatorie su scala europea, sottolineando invece che il risultato complessivamente positivo è il numero di banche che mostravano carenze sulla base dei bilanci di fine 2013. Al di là di innegabili ritardi da noi più volte sottolineati, sulla posizione di partenza delle banche italiane ha inciso un'economia che nei passati due decenni, e in particolare negli ultimi sei anni di crisi, ha avuto uno fra i peggiori andamenti in Europa. L'economia Padoan, che ha detto, riferito al mondo bancario, il governo punta comunque a rafforzare l'azione degli intermediari finanziari e l'offerta di finanziamento agendo su diversi strumenti e settori. Il governo intende rafforzare l'azione degli intermediari finanziari e l'offerta di finanziamento agendo su diversi strumenti e settori. Parallelamente intende sostenere la domanda di finanziamenti sollecitando investimenti da parte delle imprese. Anche con questo obiettivo in mente, la legge di stabilità è stata costruita sulla stretta compenetrazione fra misure di riforma strutturale, che in senso stretto non sarebbero proprio della legge di stabilità, e misure di bilancio, volte a favorire l'allocazione delle scarse risorse disponibili verso impieghi che facilitino l'attivazione delle riforme strutturali medesime. E poi anche il presidente dell'ABI, delle banche italiane, Antonio Patuelli, che è intervenuto appunto nella Giornata Mondiale del Risparmio, ha detto: attenzione, oggi c'è più offerta di prestiti bancari rispetto alla domanda sana, le banche sono tornate a erogare prestiti, la crescita delle erogazioni di mutui è stata del 29% da inizio del 2014, so che molti non condividono questa posizione, però è una posizione che da sempre Patuelli tiene. Allora, ultima parte di Focus Economia, i dati di oggi che sono relativi al mese di settembre. È aumentato il numero degli occupati dello 0,4% da un lato, che vuol dire più 82.000 occupati ad agosto rispetto a settembre rispetto ad agosto, e dello 0,6% rispetto al settembre di un anno prima, più 130.000 posti di lavoro, e questa è una buona notizia. Allo stesso tempo, però, aumenta anche il tasso di disoccupazione, che sale al 12,6% e sale al 42,9% tra i giovani, in aumento rispetto a un anno prima del 2%, per un totale di 3.200.000 disoccupati, che è il record da quando misuriamo la disoccupazione in questo modo, dal 2004. Quindi il dato è, già vedo molti messaggi che sono arrivati, come è possibile che da un lato si dica che il tasso di occupazione va bene, 130.000 occupati in più su base annua allo 0,6% e 82.000 occupati in più rispetto ad agosto, a settembre rispetto ad agosto, e nel frattempo si dica: attenzione, la disoccupazione giovanile è al 42,9%, record, e la disoccupazione complessiva è al 12,6%, e quindi i disoccupati sono 3.200.000, l'1,5% in più rispetto ad agosto e l'1,8% in più rispetto a un anno fa, tant'è che il record come numero di disoccupati dal 2004, anno in cui abbiamo iniziato a misurare le serie storiche, quindi non sappiamo se sia il record dall'84, dal 74, dal 64. E allora, per aiutarci a capire una cosa che può sembrare un gioco di parole ma non lo è, ringrazio per averci raggiunto in collegamento il ministro al lavoro Giuliano Poletti. Buonasera, ministro. Buonasera. La uso prima come, diciamo, divulgatore, se non si offende, e poi sì, anche su altri temi. Allora, noi spesso abbiamo spiegato che l'occupazione misura sul totale di chi potrebbe lavorare quanti effettivamente lavorano. La disoccupazione invece va a vedere quanti non lavorano tra quanti stanno cercando un lavoro. Non è la stessa cosa, nel senso che una donna o un uomo potrebbero decidere di non cercare un lavoro per motivi personali, per motivi di ricchezza o di esigenze, e sono a quel punto non sono disoccupati perché non stanno cercando un lavoro, ma non sono occupati perché non lavorano. Intanto vorrei capire se la spiegazione viene condivisa, e poi come si spiega lei un dato comunque così divergente. Ma io credo che sia abbastanza chiaro il senso, perché ci sono gli occupati, i disoccupati e gli inattivi. Gli inattivi sono appunto quelli che non cercano di lavorare per qualsiasi ragione, quindi può accadere che aumentino gli occupati, come è capitato in questo mese per un bel risultato di 82.000 persone in più, ma contemporaneamente aumentino anche i disoccupati, perché una parte degli inattivi, nel caso specifico quasi 150.000, hanno deciso di cercare lavoro. Quindi questi inattivi che decidono di cercare lavoro possono andare a finire negli occupati se trovano un lavoro, o nei disoccupati se non lo trovano. Quindi aumenta il numero totale della somma occupati e disoccupati. Quindi questo gioco di parole, diciamo così, produce questo dato. Quindi ecco, però, ministro, secondo me positivamente, perché avere più gente che cerca lavoro, oltre che avere più gente che è occupata, sono due numeri entrambi positivi dal mio punto di vista. Ecco, ministro, di solito nel mondo di prima, diciamo così, quando aumentava l'occupazione e aumentava la disoccupazione, lo dico, può sembrare strano, era un buon dato, lei ha ragione. Perché? Perché tu avevi una platea di chi lavora effettivamente che aumentava, e avevi anche una platea di chi cercava il lavoro che aumentava, e perché dico che è un buon dato? Perché molte persone sono scoraggiate, non lo cercano perché sanno che non c'è. Se riparte un po' di fiducia e soprattutto qualche offerta di lavoro in più, anche chi prima era inattivo torna a essere casomai disoccupato, ma lo cerca questo lavoro. Nella situazione attuale però c'è chi dice: attenzione, l'aumento della disoccupazione non è dovuto a una maggior ricerca perché c'è più fiducia che si creino posti di lavoro, ma è dovuto al fatto che le famiglie hanno esaurito, diciamo, tutte le altre forme di sostegno, risparmi piuttosto che utilizzo del una minor spesa per consumi e quant'altro, e a questo punto anche chi non aveva bisogno o comunque preferiva restare a casa si è messo a cercare lavoro. Questa è una spiegazione parziale e ragionevole, nel senso che è probabilmente vero che questi fenomeni si cumulano, cioè ci sono sia i fenomeni di aspettativa positiva, cioè di persone che pensano che in quel momento una probabilità in più di trovare un posto di lavoro c'è e quindi si mettono a cercare, e dall'altro lato è ragionevolmente immaginabile che ci sia anche l'altra componente di chi cerca lavoro per cercare di integrare una situazione familiare, magari dove c'è una persona in cassa integrazione e quindi si cerca di recuperare reddito con una persona che si mette a cercare. Quindi questi sono tutti fenomeni che sono plausibili, credo ragionevolmente in campo, però da questo punto di vista io credo comunque che avere 80.000 persone in più che vanno a lavorare, e sono uomini e donne in più che lavorano, e avere comunque 150.000 persone in più che lo cercano, mettiamo anche che siano composte in questa maniera, comunque danno il segno, il senso di una situazione dinamica rispetto ad una situazione precedente che era, come posso dire, statica, perché veniamo da alcuni mesi dove i dati erano piatti, che dal punto di vista della storia passata era anche un bene, perché venivamo da mesi e anni dove abbiamo perso occupazione sistematicamente per anni, quindi se ad un certo punto abbiamo smesso di perderla va considerato anche un buon dato, ma se riusciamo a ricominciare ad assumere nuova occupazione questo è sicuramente meglio. Ministro, restiamo sul tema dell'occupazione, ma altre notizie attualità. Due domande ancora per lei. La prima riguarda lo sciopero della FIOM, la manifestazione della FIOM del 14 novembre. Lei oggi ha dichiarato: no, non c'è nessuna preoccupazione per lo sciopero della FIOM del 14 novembre. Vorrei capire una cosa un po' più ampia. Lei ha anche detto che quanto è successo alla manifestazione dei lavoratori delle ST di Terni è un'eccezione, una brutta giornata che vogliamo che non si ripeta mai più, e ne prendiamo atto e siamo d'accordo con lei. Però abbiamo visto alcune dichiarazioni nelle ore successive, nei giorni successivi, che riconoscevano al sindacato il ruolo anche di sapere mediare, organizzare le tensioni sociali, cioè di mantenere anche quella che alcuni chiamano pace sociale. Allora io vorrei capire, ma il sindacato, che qua non si capisce più, serve o non serve secondo lei? Cioè serve solo per le trattative azienda, sindacato, primo livello, secondo livello, oppure ha anche un ruolo, mi passi il termine, politico istituzionale, perché poi riesce ad aggregare la protesta senza che spesso sfoci in tensioni o lotta sociale vera e propria? Io credo che la prima funzione storica del sindacato è quella di rappresentare i lavoratori, di contrattare, e quindi l'azione che svolge nella tutela del lavoro nell'impresa, nella contrattazione sia a livello aziendale che a livello generale. Poi naturalmente, essendo un'organizzazione sociale che ha una vasta base, è naturale che si abbia anche delle opinioni, diciamo così, delle valutazioni di tipo generale. Il punto che va chiarito è che il sindacato legittimamente rappresenta queste posizioni, le esprime, ma deve essere abbastanza chiaro che la responsabilità, ad esempio, se si tratta di fare una legge, la responsabilità della legge compete inevitabilmente al Parlamento e al Governo, quindi col sindacato si discute, si ascoltano le opinioni che ci sono, la decisione però va presa. Questo è il punto che mi però pare abbastanza chiaro e lineare. Ecco, per inciso, poi l'ultima domanda, anche lei è rimasto sorpreso dalla pensione e dall'aumento di stipendi che ha avuto l'ex segretario della CISL Bonanni nel corso degli ultimi anni, triplicato il suo stipendio, pensione da 8.000 euro lordi, 5.000 euro netti? Io ho visto le notizie di stampa, adesso non sono in grado di fare valutazioni perché non conosco neanche, posso dire, quanto ciò corrisponda ai fatti e da cosa dipenda. Letta così, effettivamente è una dinamica piuttosto, posso dire, veloce, ecco, mettiamola in questo modo. Veloce o strana? Veloce. veloce, dice una carriera brillante quanto retribuzioni. Ma un sindacalista, lei è stato adesso, noi ci conosciamo da anni, lei è stato il numero uno della Lega Coop a livello nazionale, è emiliano, quindi conosce sia il fronte dell'impresa impresa che anche il fronte della rappresentanza sindacale e quant'altro. Ma secondo lei un sindacalista non dovrebbe non avere aumenti che ricordano molto certi bonus dei manager? Cioè 30% l'anno, 20% l'anno? Io credo che le organizzazioni debbano soprattutto avere un meccanismo di trasparenza, nel senso che quando le decisioni che vanno assunte nelle sedi giuste dai soggetti che ne hanno titolo e sono appunto trasparenti, la responsabilità l'assumono quelle organizzazioni. A quel punto possono decidere la retribuzione di un loro dirigente, l'importante è che sia tra virgolette un meccanismo che è noto e che ci sono degli organi che lo controllano e che decidono che va bene in quel modo. Io non faccio valutazioni. Vale anche per le tessere? No, le tessere in quale senso? Nel senso che le tessere ci dovrebbero sempre essere, non ho un dubbio al mondo. La trasparenza dico vale anche sulle tessere, sì, immagino, no? Su tutto dice la trasparenza sindacale. Io direi di sì, cioè nel senso che credo che dal punto di vista generale quando ci si assume una si ha una responsabilità nei confronti di una collettività, io credo che le informazioni sia bene che siano note e diffuse. Chiaro. Perché questo produce il controllo sociale, produce la possibilità di giudicare. Poi magari uno dice a me va bene che facciano così o abbiano lo stipendio in quel modo, questo nel merito ognuno ha la... Però le dice trasparenza sul perché di questi aumenti, ecco. Io credo che tutti dovrebbero essere sempre, avere sempre come logica quella della trasparenza. Un'ultima domanda prima di salutarla, sull'articolo 18 andate a chiudere così, perché io sai che ho perso un po' di vista il senso, la polemica no perché è impossibile, ma il punto di caduta. No, c'è una discussione in Parlamento, adesso il documento è in commissione alla Camera, l'unica cosa che io ribadisco è che noi vorremmo arrivare rapidamente alla conclusione dell'iter, perché avendo scelto in sede di legge di stabilità di mettere risorse per ridurre il costo del contratto a tempo indeterminato tutele crescenti, che per noi è il fulcro di questo ragionamento, è chiaro che vorremmo avere appunto la nuova norma sul contratto a tutele crescenti il più rapidamente possibile, perché questo consentirebbe di tenere insieme l'esito della discussione sulla riforma delle forme contrattuali e le risorse economiche della legge di stabilità. E quindi a questo punto staremo a vedere anche che cosa, ho capito benissimo cosa dice lei, se riusciamo, prima chiudiamo il Jobs Act, prima possiamo stanziare risorse, mi scusi se brutalizzo un po' il concetto. Grazie al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Grazie a voi. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, ma non dimentichiamo l'appello al governo, la prossima settimana avremo anche una sorpresina. Il governo deve, a nostro avviso, ripristinare il fondo per le autosufficienze a livello almeno dell'anno scorso. È vergognoso aver tolto 100 milioni su 350 milioni al fondo per le autosufficienze, e continueremo anche la prossima settimana. Intanto da Sebastiano Berisoni un ringraziamento a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione, a Pietro Lacorte in regia, e un augurio a voi di un buon fine settimana. Parte il nuovo palinsesto da domani di Radio 24 del weekend, non perdetevelo. Radio 24, la passione si sente.